1, 2, 3. Adesso, tra poco ci sarà Alessandro Milan che leggerà i giornali in un modo che nessun altro al mondo li sa leggere. 24 mattino. L'Italia si desta. Siamo qui, cari italiani, alle 7:18 minuti, proprio nel giorno in cui inizia la 43esima settimana decisiva per la riforma elettorale. E Renzi ieri ha dovuto dire: mi accusano di averla messa un po' nel frigorifero. Ma no, ma no, ma no, ci mancherebbe. C'è tempo, noi stiamo qui a contare. È anche l'inizio della 43esima settimana decisiva per l'abolizione delle province, cari italiani. Debosciati che non siete altro, come dico io. Forza, è l'ora di attivarvi alle 7:19 minuti. Noi oggi parleremo di, insomma, questo governo Renzi che arriva. Avremo l'onorevole Gelli, che è del Partito Democratico e renziano. Avremo il senatore Buemi. Avremo anche il ritorno di Alberto Forchielli alle 8:15, imprenditore, presidente dell'Osservatorio Asia. Alberto Forchielli, ricordate l'ultima volta che è arrivato, no? Qui fatto un po' di scompiglio con la Cina. Comunque oggi ci parlerà da Monaco, di Baviera, Germania, visto che Renzi tra l'altro ha parlato ieri con Angela Merkel. Capiremo con lui sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista delle reazioni delle cancellerie estere, come sono i primi passi di Matteo Renzi. Intanto andiamo a leggere i giornali. Questo lunedì 24 febbraio, i titoli, il Sole 24 Ore apre sul nuovo governo Renzi, le priorità: lavoro, una cura antiburocrazia. Questo è il titolo di prima pagina. Poi le dichiarazioni del sottosegretario Delrio, sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio, ieri da Lucia Annunziata, e la frase sui bot è il titolo più o meno di tutti i quotidiani. Corriere della Sera: prelievo sui bot, primo scoglio. Repubblica: cambieremo le tasse sui bot. La Stampa: bot, il primo fronte di Renzi, allo studio un'aliquota al 20%, l'aumento al 23% di tutte le rendite. Il Messaggero: bot, la tassa può aumentare. Il sottosegretario Delrio anticipa il ritocco dell'aliquota. L'Unità: prime mosse, bot e ius soli. Lancia anche questo tema l'Unità. Il Giornale: si parte di tasse, le prime mosse del governo. Il Secolo XIX, più tasse sui bot, è scontro. Eccolo lì, insomma, i titoli sono tutti dedicati a questo. Il Fatto Quotidiano, edizione del lunedì: Italia, ostaggio della supercasta e la burocrazia. Su questo ci sono tanti articoli interessanti in quella che si promette essere una delle battaglie più importanti per Matteo Renzi. Prima però voglio partire da alcune notizie, due che mi hanno colpito sui giornali. La prima è un'esclusiva di Repubblica, riguarda le università italiane, in particolare un focus sulle università del Sud. Le cifre sono contenute in un rapporto segreto del Ministero dell'Istruzione che viene rivelato oggi da Repubblica. Il titolo non è molto incoraggiante per le università del Sud: spese fuori controllo e troppe assunzioni, il ministero boccia le università del Sud. Il dossier segreto dice che i soldi in realtà ci sono, ma si usano male. Mario Reggio e Corrado Zunino ne scrivono a pagina 20 di Repubblica. Alla fine dello scorso novembre le università del Sud si fermarono per due giorni, proteste perché dissero molti rettori: vogliono chiudere le università del Sud. In realtà, in un rapporto rivelato oggi da Repubblica, in un dossier, c'è scritto che gli Atenei meridionali hanno avuto un notevole flusso di finanziamenti infrastrutturali. Il Sud è ricchissimo da questo punto di vista. Sono 1,827 miliardi comprensivi di fondi europei per il settennato 2007-2013. A questa ricchezza, dice ancora il report, corrispondono indici finanziari delle Unisud non sempre positivi. 9 Atenei sfondano il tetto dell'80% sul costo del personale. L'Università del Molise arriva oltre il 92%, lasciando a didattica e ricerca le briciole. 11 università su 26 si sono indebitate, l'Orientale di Napoli del 17,38%. Sull'accusa dei rettori di non poter assumere, il Ministero replica: a ottobre 2013 diverse università meridionali disponevano di risorse non indifferenti, di punti organico per i quali non si sono verificate le corrispondenze assunzioni. Insomma, anomalie di bilancio, assunzioni contra legem, un insieme di accuse davvero notevoli. I soldi ci sono, si usano male. Queste sono le accuse nel dossier segreto che trovate denunciate oggi da Repubblica a pagina 20. A proposito di ricerche, c'è da dire che l'Istat ieri ha reso nota una ricerca che è finita su tutte le prime pagine dei giornali di oggi. La trovate in basso nelle prime pagine, poi sviluppata all'interno. Repubblica dedica una pagina, Il Giornale lo mette in prima pagina e poi un'intera pagina all'interno. La ricerca è un po' impietosa nei numeri, come tutte le ricerche andrebbero un pochino studiate, anche discusse, perché messa così è brutale nel titolo. La ricerca shock, titola per esempio Repubblica, sul capitale umano in Italia. Una donna vale la metà dell'uomo. Questo è il titolo per esempio di Repubblica con Maria Novella De Luca. Messa così vuol dire che, tradotto in cifre, un maschio in termini economici ha una potenzialità produttiva nell'arco della vita stimata in 453.000 euro, mentre una femmina in 231.000 euro. Il capitale umano di una donna dunque è esattamente la metà di quello di un uomo, o se volete metterla così, in Italia ci vogliono due donne per creare il reddito di un uomo. E poi volete altri dati? In Italia il capitale umano di un over 60 vale solamente 46.000 euro. Non importa quale esperienza, quanta saggezza abbia egli accumulato nella vita già vissuta, il suo futuro è dietro le spalle, quindi parlando di contributo al PIL del paese, il reddito è poco o nulla. Ci sono due modi per vedere questa classifica, sia sul lato di genere, uomo-donna, sia sul lato italiano, perché c'è anche il raffronto in questa statistica di quanto viene quantificato il nostro capitale umano rispetto all'estero. Per esempio, quantificato 340.000 euro il capitale umano medio italiano, meno di tutti gli altri paesi dell'OCSE, tanto che il giornale la mette non tanto sulla differenza di genere uomo-donna, ma proprio sul raffronto Italia resto dei paesi. E allora scrive Cristiano Gatti in prima pagina del giornale: l'italiano vale 70.000 euro meno degli altri europei. A questo punto dovremmo averla capita, siamo ultimi, scrive Cristiano Gatti. Qualunque classifica si prenda in mano, tra i paesi evoluti siamo immancabilmente là, in coda. Siamo il Sassuolo dell'Ocse. Vabbè, questo confronto calcistico. Non bastassero i giudizi e i pregiudizi degli stranieri, possiamo sempre contare sull'Istat. Nessuno più del nostro istituto di statistica sostiene coi numeri la miserrima reputazione. La rivelazione è questa. Siamo appunto gli ultimi nell'Ocse. Anche per il giorno la mette così. Quanto vale un italiano? Solo 342.000 euro di capitale umano, tutto compreso. Calcolo fatto dall'Istat, anche se Dario Di Vico in pagina 27 del Corriere della Sera commenta questa ricerca, dice, scrivendo così: l'Istat, il capitale umano e le donne sottostimate, le statistiche sono impietose, fotografano di continuo il grande gap che esiste tra uomini e donne in Italia. L'ultimo dato viene appunto da questa ricerca dell'Istat: il dato medio riferito ai maschi di capitale umano è 435.000 contro 231.000 delle donne, quasi il doppio. Quindi la media nazionale, per la cronaca, è di 342.000 appunto. Anche se, scrive Di Vico, sul concetto di capitale umano la scienza economica si è interrogata almeno dai tempi di Adam Smith, della sua Ricchezza delle Nazioni. Più di recente, grazie all'apporto della sociologia, la riflessione sul capitale umano si è allargata oggi e oggi contempla il peso delle esperienze e la capacità di networking, due fattori però difficilmente quantificabili. E in più, scrive Dario Di Vico, questa ricerca ha un guaio. Il guaio è che i dati si fermano al 2008, quindi non fotografano gli effetti della grande crisi che sta mettendo a dura prova il modello sociale italiano. Comunque, se volete sbizzarrirvi con questa ricerca, la donna vale la metà dell'uomo dal punto di vista di certificazione e quantificazione di capitale umano, parola di una ricerca dell'Istat. Riprendiamo subito dopo la pubblicità. Con che cosa? Ma certo, è il giorno, almeno al Senato, di Matteo Renzi. I primi passi del governo, la fiducia oggi attesa al Senato, domani alla Camera, attesi anche un'infornata di sottosegretari, pare 60 nomine più o meno, per completare la squadra di governo, e soprattutto le prime polemiche sulla questione della tassazione dei bot. Grazie cari ascoltatori sempre per il grandissimo affetto che dimostrate, saluto anche il Gabibbo che è sempre lì, come Actarus, grandissimo Actarus. Allora, alle 7:33 minuti, oggi è il giorno della fiducia al Senato, domani alla Camera per Matteo Renzi e il suo governo, e anche sono i giorni delle nomine per i sottosegretari tra oggi e domani, sottosegretari e viceministri. Ieri invece è il giorno delle prime polemiche, perché il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Delrio è andato da Lucia Annunziata e a questa domanda sui bot ha fatto capire, con questa metafora, insomma, se ha una vecchietta, una signora anziana, ha detto per la verità, mette da parte 100.000 euro in bot, non credo che se le togli 25 o 30 euro ne avrà problemi di salute, vediamo. Non è che abbia risposto dicendo sì, facciamo la tassazione sui bot o la rimodulazione o comunque aumentiamo la tassazione sulle rendite finanziarie, però dato di fatto che già questa risposta abbastanza vediamo ha agitato il panorama politico, tanto che il Corriere ha scritto pomeriggio di fibrillazioni, mamma mia, vabbè, per il governo Renzi. Delrio agire sulle rendite dei bot, poi arriva la frenata del governo, così lo vede a pagina 2 il Corriere della Sera, questa frase: se a 100.000 euro una signora anziana le togli 25-30 euro non avrà problemi di salute. Al di là delle polemiche, interessanti sono i temi affrontati a partire da questo. Vale a dire, per esempio, pagina 3 del Corriere della Sera, interessante l'analisi che fa Enrico Marro. Il summit Renzi-Padoan taglia la spesa pubblica e mobilità dei dirigenti. Anche se il governo Renzi, scrive il Corriere, dovesse aumentare il prelievo sulle rendite finanziarie, bot compresi, non è da qui che verrà il grosso delle risorse per rilanciare occupazione e crescita dell'economia. Con un eventuale allineamento della tassazione alla media europea, l'Italia col 12,5 sui titoli di Stato e il 20 su azioni, obbligazioni, dividendi e depositi si colloca 2-3 punti sotto, si potrebbe incassare al massimo 1 miliardo, dicono gli esperti. La manovra sulle rendite avrebbe soprattutto un valore simbolico, come ha spiegato Delrio, far pagare di più chi vive di rendita per abbassare il prelievo sul lavoro. In ogni caso non sono le rendite la leva sulla quale conta il governo per azionare il programma di rilancio economico, che poggia invece su altre voci ben più consistenti. Innanzitutto la revisione della spesa pubblica. E qui si apre il capitolo Cottarelli, in quanto il commissario Cottarelli, che ha lavorato sui 25 tavoli di settore, potrebbe tagliare già nel 2014 almeno 4 miliardi di euro, secondo le previsioni. Come? 1 miliardo con l'estensione alle regioni e alle forniture sanitarie del raggio di azione della Consip, la società dell'economia per l'acquisto centralizzato di beni e servizi, e dal taglio della spesa per locazioni. Risparmi importanti dovrebbero arrivare anche dalla chiusura e messa in liquidazione delle società partecipate. E poi la riorganizzazione dell'amministrazione centrale con l'accorpamento di strutture, l'attuazione dell'agenda digitale, il taglio dei costi della politica a partire dalle auto blu. E poi il capitolo dipendenti pubblici. Non ci saranno licenziamenti, ha detto Delrio, ma la mobilità sì, cari dipendenti pubblici, per spostare il personale da dove non serve, e gli esuberi verranno gestiti con l'estensione al pubblico degli ammortizzatori sociali. Questa è dunque una ricetta un po' più corposa del banale aumentare le tasse sulle rendite finanziarie, tanto che anche Alessandro Barbera, pagina 3 della Stampa, si concentra proprio su questo. Pronto il piano Cottarelli, subito 6 miliardi di tagli nel mirino acquisti e sussidi. Dunque sono 6 i miliardi di tagli, secondo la Stampa. Sui social network ieri era un sol coro: se iniziano dalle tasse iniziano male. Si potrebbe argomentare che ci sono tasse e tasse, ma la domanda che si vuole porre e che vale la pena porsi, scrive la Stampa, è: che ne è di Carlo Cottarelli e dei grandi risparmi promessi dall'ormai ex ministro Saccomanni? Il commissario alla revisione della spesa ha pronto il dossier da qualche giorno, aspetta di farlo vedere a Padoan e si parla di sfida ambiziosa, un minimo di 4,5 fino a 6 miliardi di risparmi già quest'anno, 12 miliardi nel 2015, 20 miliardi nel 2016 e 30 miliardi di risparmi a regime nel 2017. Questa l'analisi di Alessandro Barbera e quello che è il piano di Cottarelli di revisione della spesa pubblica. Come? Beh, come scrive il Corriere, rivedendo l'acquisto con le maxi gare presso la Consip e poi ancora altre quattro grandi voci sono i costi della politica, gli stipendi dei funzionari pubblici, le auto blu, la formazione professionale, insomma tutti i dettagli di quello che potrebbe essere il piano Cottarelli. Anche se il vero campo, ci sono le polemiche sui bot, ma il vero campo, primo campo sul quale vuole battagliare Matteo Renzi sembra proprio quello della lotta alla burocrazia. La lotta alla burocrazia, ci sono tanti articoli su questo. Sarà lotta alla burocrazia, titola per esempio pagina 4 il Messaggero. Tra l'altro Renzi ha detto questo e poi ha sentito Angela Merkel. Lotta alla burocrazia è il titolo anche del Quotidiano Nazionale ed è anche il dossier del Fatto Quotidiano della domenica, che si concentra moltissimo proprio sulla burocrazia. Burocrati di Stato, la casta invisibile, è ciò che fa anche Repubblica in una pagina con Valentina Conte a pagina 4. Volti nuovi nei ministeri, andranno via i mandarini che condizionano le leggi. Cioè Renzi, secondo Repubblica, vuole per decreto licenziare, tra virgolette, licenziare i consiglieri di Stato. Il governo Renzi, scrive Repubblica, è pronto a schierare la sua potenza di fuoco e di novità contro la burocrazia che incista i gangli dello Stato. La burocrazia che porta lentezze, imbuti, tappi. Parliamo di capi di dipartimento, capi di gabinetto, capi degli uffici legislativi. A tutto questo, alle eminenze grigie, ai mandarini, agli altissimi burocrati, Renzi è pronto a mettere un freno. Prima lo vuol fare con un decreto legge, così vorrebbe lui. Secondo altri, con una direttiva formale o una forte indicazione, gli suggeriscono più prudentemente i suoi, per tenere fuori dall'imminente spoil system il valzer delle poltrone ministeriali che contano. È un terreno scivoloso, fa sapere Repubblica, i meccanismi sono delicati, ma se il buongiorno si vede dal mattino, l'intenzione di Renzi è ben confermata dalla prima nomina fatta da Graziano Del Rio, neo sottosegretario alla presidenza del Consiglio, che ha nominato Mauro Bonaretti, già suo capo di gabinetto al Ministero degli Affari Regionali e prima ancora City Manager a Reggio Emilia, portandolo come segretario generale a Palazzo Chigi al posto di Roberto Garofoli, ex capo di gabinetto di Filippo Patroni Griffi alla funzione pubblica. Entrambi, Garofoli e Patroni Griffi, sono consiglieri di Stato. Ma questo dovrebbe essere l'inizio di una turnazione di tutti i capi di gabinetto e tutti i capi dipartimento a Palazzo Chigi e nei vari ministeri per fare questa lotta alla burocrazia. Sarà così, lo vedremo. Intanto ieri la giornata di Matteo Renzi è stata una giornata passata in casa. Maria Teresa Meli racconta la giornata a pagina 5 del Corriere della Sera, il debutto in Parlamento, responsabilità pesanti, però è il mio esecutivo, così dice Renzi ai suoi, so che mi son dato una tabella di marcia serratissima. Ma dobbiamo tornare a far girare l'Italia per il verso giusto, far tornare la gente ad avere fiducia nella politica. Ed eccolo qui, non voglio ibernare la legge elettorale, non voglio abbandonare l'idea di fare le riforme, non è vero, come è stato detto e scritto, che ho rinunciato all'Italicum. Vabbè, siamo alla 43esima settimana decisiva, peraltro. Quindi sarà quella decisiva o sarà la 44esima quella decisiva? Staremo a vedere. Comunque, Matteo Renzi dice ai suoi, se sarà necessario, si potrà sempre staccare la spina, questa è la parola d'ordine dei renziani. Ancora Renzi che dice, io mi sto giocando tutto, lo so perfettamente, non cerco e non cercherò giustificazioni, però dovete sentirvi tutti coinvolti in questa sfida, in questa scommessa. L'importante è partire subito e bene, perché so che mi gioco sul campo anche la mia autorevolezza in Europa, perché c'è chi non mi conosce e ci può anche essere chi dubita di me. Ci può anche essere chi dubita di Matteo Renzi, che ieri comunque è andato a messa e il Vangelo era secondo Matteo. Saluto Mauro Meazza. Mauro, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Il Vangelo secondo Mauro non c'è. No, secondo Matteo, sì, quindi tu al massimo puoi ambire a un sottosegretariato. Ma no, perché credo che lì ci sia tutto un problema complicato di attribuzioni, no? Vedremo se si stupiranno, ma vedremo. No, leggevo così ieri, per carità, poi può darsi che stamattina le cose siano già cambiate. Ah, va bene. Abbiamo fatto qualche riforma nel frattempo, perché io dormivo fino a poco fa, quindi non vorrei che avesse fatto qualche riforma. Preso sulla velocità. No, per ora è tutto a posto, quindi... Ecco, no, perché noi ci siamo permessi sul Sole 24 Ore di oggi di dire che ci sarebbero due problemini, e uno è questa vicenda della tassazione della casa con il problema della TASI, della IUC, sì. Insomma è un pasticcetto lì, se vuole evitare che salgano le tasse bisogna che decida subito qualcosa, quindi ci sarebbe proprio una certa urgenza. E poi c'è il lavoro, che appunto noi abbiamo provato ad andare a guardare una decina di incentivi per le assunzioni. E ci siamo accorti che c'è un po' una burocrazia che scaccia tutte le buone intenzioni. Quella che vuole abbattere Matteo Renzi, no? Ma non l'ha fatto già stanotte. No, non volevo arrivare tardi. Che graffiante Mauro Meazza oggi. No, in gran io forma. Non riesco a tenere il passo. Senti, poi vorrei dire invece una cosa di servizio. Noi abbiamo questa guida alle pensioni oggi nel Sole 24 Ore, nelle pagine di norme e tributi, sono 4 pagine dedicate a come anticipare il ritiro. Adesso non vuole essere una presa di posizione politica, però so che in molti possono avere interesse a riscattare gli anni di laurea, a fare la contribuzione volontaria, scegliere uscite anticipate. Abbiamo cercato di mettere le cose insieme per dare un po' di indicazioni utili a chi fosse interessato. Mi sembra giusto. È una guida che ci permettiamo di proporre. Ecco, un altro problemino: ci sarebbero 8 miliardi di tasse su cui i giudici della Consulta potrebbero intervenire nei prossimi mesi con mano pesante. Non vorremmo che poi servisse qualche altro intervento urgente di quelli, insomma, vedi già in prima pagina per le università, scusami, Fisco e Consulta partite da 8 miliardi. E poi c'è questa storiella carina degli universitari che dovrebbero prendere le borse per il diritto allo studio, ma le regioni non gliele danno, talvolta nell'80% dei casi, ma questa è tutta una vicenda che magari affronteremo durante la giornata, ci torneremo durante la giornata. Va bene, ovviamente. Caro Mauro, come vedi c'è stato il campionato. Stavano apprezzando il tuo fair play. Ma non è cambiato nulla, difficoltà, lì davanti qualcuno ruba dei punti, vabbè, ma insomma cose che si sanno da quando siamo nati, no? Comunque, allora è la 45esima settimana decisiva per la riforma elettorale. 43esima è la 27esima giornata di campionato in cui non riusciamo ad avere un rigore all'interno. No, ma infatti, però un rigore a San Siro c'è stato ieri, mi sembra. Comunque, sì, caro Mauro, ci toccherà anche quest'anno, che noia, mi sa, arrivare prima di voi. Cari italiani, intanto ci sono le polemiche, sono sorte per soprattutto la figura di un ministro, la ministra dello sviluppo economico, Federica Guidi. Ci sono state le polemiche, lei oggi fa un'intervista al Corriere della Sera, Roberto Bagnoli, l'intervista a pagina 6, e intanto dice: assolutamente inventata la mia cena ad Arcore con Berlusconi lunedì scorso. Alla domanda: è vero che lunedì scorso lei era ad Arcore con suo padre a cena con Berlusconi? Non, assolutamente no, non sono mai stata ad Arcore a cena, non mi ha offerto mai alcuna candidatura alle europee. Non riesco a capire come sia nata questa invenzione. Certo, conosco Berlusconi, l'ho incontrato diverse volte ed è vero che, ad essere precisa, tramite Alfano mi ha chiesto alle ultime elezioni di entrare in lista nel Popolo della Libertà, ma ho rifiutato per due motivi: non ho mai voluto scendere in politica e poi avevo un bambino piccolissimo. E sulla conoscenza col ministro Padoan: lo conosco di nome e di fama certamente, ma non di persona. Renzi lo conosco da diversi anni, lui sindaco di Firenze, io presidente dei giovani di Confindustria, abbiamo avuto modo di frequentarci ma solo in occasioni pubbliche e istituzionali. Poi la questione delle commesse e il possibile conflitto di interessi, perché così almeno dice, e lo vedremo tra poco, Stefano Fassina sull'Unità, Dice Federica Guidi, il ministro, la Ducati Energia in Italia ha solo il 20% di fatturato, partecipiamo ad appalti privati e pubblici in tutto il mondo dove esportiamo in 140 paesi. In Italia con le aziende pubbliche abbiamo solo il 10% del fatturato, alcuni appalti li abbiamo vinti, altri persi. Sulla sua figura però Stefano Fassina è fuoriuscito, no, dal prima che cadesse il governo Letta, quando si era dimesso da vice ministro dell'economia, intervistato da Bianca Di Giovanni a pagina 3, dice: Guidi è in conflitto di interessi, è vicino al cavaliere, il premier provveda. Il caso Guidi, lo definisce l'Unità, che pesa sul nuovo esecutivo come un macigno, fa salire il termometro delle tensioni. Ecco, dice Fassina, alla domanda Del Rio ha detto che il premier seguirà i dossier più esposti. Immagino sia una battuta, risponde Fassina. Il conflitto non può essere evitato dall'intervento del premier per il semplice fatto che l'azienda della Guidi ha molteplici rapporti con la pubblica amministrazione. E penso poi al suo orientamento di politica economica, al fatto che è favorevole al nucleare, è lontana dalla cultura di intervento pubblico in economia, che invece in questo momento è decisivo. Non era certamente necessario chiedere alla Guidi per chi vota, visto che da mesi compare sui giornali come uno dei volti nuovi che Silvio Berlusconi avrebbe voluto in Forza Italia. E dunque Stefano Fassina dice: ma come, è un volto di Silvio Berlusconi? Tra l'altro, a proposito di Berlusconi, Ugo Magri sulla Stampa fa notare a pagina 7 che invece è un Berlusconi in questo momento all'interno di Forza Italia ci sono varie anime. Berlusconi ora teme i rischi della traversata del deserto, fa sapere Ugo Magri che ci sono un po' quelli che si chiamavano un tempo i falchi, come Brunetta, che pensano che la congiuntura economica non sarà sempre così negativa, prima o poi girerà al bello, per cui tra 4 anni Renzi potrà sbandierare che i progressi sono stati merito suo. Insomma, persone che vogliono un po' scalpitare, chiederebbero a Berlusconi di avere un atteggiamento più da spallata, più di lotta, tanto che, scrive Ugo Magri, Berlusconi invece mercoledì scorso ha riunito i gruppi parlamentari per intrattenerli 2 ore sull'importanza di garantire i veterinari a 8 milioni di cani e gatti e di rastrellare i voti dei poveracci promettendo dentiere gratis per tutti. Sembra una barzelletta, ma alla fine, scrive La Stampa, effettivamente facce stranite, deputati e senatori che non credevano alle loro orecchie. Ma è un Berlusconi, come dire, poco d'assalto in questo momento. Tanto è vero che anche Giuliano Ferrara, prima pagina sul Foglio, fa un lungo editoriale contro i rosiconi, dicendo che questo è il miglior governo disponibile in questo momento, e cito solo la frase di chiusura dell'editoriale di Giuliano Ferrara, che scrive: per ora sono l'uomo più felice del mondo, in attesa di Marina è arrivato il figlioccio e ci vorrà uno sforzo notevole per indurlo a stronzirsi e appiattirsi sull'ideologia di Asor Rosa, Vendola o Scalfari. Votate il compagno greco intanto, cioè, come dire, Tsipras, no? Rosiconi, questo è il termine che più usa Ferrara nei confronti di coloro che sono contro il governo Renzi. Va bene, come vedete la politica e la rassegna stampa è quasi tutta, è stata tutta declinata più o meno sulla politica. D'altronde c'è questo e poco altro anche di cronaca, non mi ha colpito granché, c'è solo tempo, cioè ci sono cose che mi hanno colpito, ma non c'è tempo, c'è tempo per il titolo della Gazzetta dello Sport, Sonata Tevez. Questo è il titolo della Gazzetta per la vittoria della Juventus nel derby. Una vittoria limpida e regolare, 1-0, palla al centro. Vabbè, siamo al momento conclusivo, al momento della carta costa, l'articolo più inutile scovato sui giornali, e pesco anche qui dalla politica, perché va bene, io ho letto le questioni economiche, queste sono importanti, come recuperare soldi, tassare, non tassare, ma poi, ma finiranno questi articoli? Tweet, messa, Bagno di folla, l'ultimo giorno di quiete del premier. Sarà quiete con 200 fotografi fuori da casa. Pagina 5 del Giorno. Via del Capitano, una stretta stradina in salita. Inizia così l'articolo di Paola Fichera. Per sapere che Renzi ha le porte del calcetto, ha lo scivolo nel giardino, è andato a messa a sentire il passo del brano del Vangelo secondo Matteo, e soprattutto sua moglie fa sapere che ha mangiato pasta al burro e petto di pollo ieri. Ma chi se ne frega? Chi se ne frega? Vabbè, ma finiranno anche questi articoli.